ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it. Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato ad aspettarlo ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna dalle nostre fonti non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Sto in treno un po' più rilassato. Ho capito che ho di fronte è un investigatore privato, ma soprattutto è un criminologo. Uno di quelle persone che fanno anche consulenti nei casi importanti, quelli che si vedono in televisione. Si chiama Gianni Spoletti, è la persona che mi sta rivelando quanto sia fragile il baluardo a cui io affido le mie più private intenzioni. Lei sarà super bonificato comunque, no? Ma guardi, io ho i miei telefoni sono criptati, quindi poi noi siamo anche quelli che a livello diciamo professionale forniamo anche questi tipi di servizi, ma anche per le forze dell'ordine, perché ho un passato in polizia come poliziotto, quindi insomma forniamo un po' le procure di microspie, microcamere e quant'altro, insomma. Quindi lei diciamo costruisce anche questi apparati? Noi costruiamo questi apparati, li assembliamo a derivazione militare e li forniamo solo per indagini di un certo livello, non di certo trattiamo cose da internet. Ma quelle robe che vendono su internet, compra microspia qua 5 ma euro. Per carità di Dio, quando non funzionano. Ho bisogno di qualcosa mi chiami che piuttosto gliela regalo io. Sì, perché ne robaccia quella lì, sì. Cineseria, guardi, è un discorso molto ampio, perché dovremmo star qui delle ore a parlare, perché tanto comunque arriva tutto dalla Cina, anche le cose più sofisticate che usiamo noi alla fine se le fanno produrre in Cina. Quelli però sono gli apparati che vengono dalla Cina. Esatto. Poi dipende come li assembla, se lei prende i componenti, poi dipende come li assembla, certo. No? Immagino. Certo. Quindi diciamo un tecnologico di alto livello si compra componenti in rete, piccoli componenti facilmente acquisibili, e si prende un clonatore di telecomandi di automobili. Assolutamente sì. Io ne sono in possesso di uno, ma funziona. L'ho anche detto alle forze dell'ordine, alla procura di Verona, quindi sanno benissimo che io cioè in mani sbagliate queste cose fanno danno. E questo funziona, io mi metto davanti a una macchina, quando arriva il proprietario clono il segnale e poi lo riapro io da solo. Così certo. Funziona. Certo, no, ma lei fino a che invita l'autovettura io posso violare la sua automobile in ogni momento, insomma, è tutto lì. Ma non è una cosa da poco questa, eh? Ci credo. Poi vale anche per i cancelli probabilmente, allora, anche telecomandi. Vale per i cancelli, vale per i garage, vale per tutto quello che è automatico. Secondo lei le persone che compiono crimini sono in grado di arrivare a mettere insieme pezzi e clonarlo? Se ce l'ha lei evidentemente gira, qualcuno ce l'ha. Guardi, il discorso è questo, è molto semplice. Io credo che le attività che oggi criminali che sono diciamo sul territorio, molte sono anche supportate dalla tecnologia, quindi le organizzazioni criminali si stanno attrezzando a questo, nel senso che sono alla ricerca spasmodica sul mercato di trovare persone tecnologicamente preparate per poi utilizzarle per compiere dei crimini. quindi oggi è molto pericoloso, cioè la tecnologia che oggi è disponibile è veramente molto pericolosa, in mani sbagliate, come ho già detto poc'anzi, possono fare veramente dei grandi danni. Diciamo tecnologie per aprire qualcosa che deve star chiuso, ecco, queste sono le prime cose, quindi la sicurezza sì. se ne va a quel paese. La sicurezza purtroppo se ne va a quel paese. Lei pensi che una stazione a terra, no, che riesce a monitorare e archiviare tutte le utenze telefoniche nell'area di interesse, mi spiego meglio, nell'arco di 500 metri tutte le utenze telefoniche da una stazione a terra molto complessa, articolata, con dei software molto particolari, riesce a monitorare, riesce a capire le utenze che in quell'area sono agganciate. Good night, I love you, darling, good night. Good night, may the stars shine bright. Good night, my darling. Good night, good night, good night. I'll push down the pillow with all of my might. Good night, good night, the stars are so bright. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Lei ha un telefono particolarmente protetto rispetto alla media? Ma io ho un telefono che diciamo particolarmente protetto, perché me lo impone proprio il mio lavoro di criminologo. Ma li vendono i telefoni come il suo? Cioè, potrebbe... Certo che li vendono, certo che li vendono, cioè non è che li trova, cioè, proprio preparati, bisogna prepararli con un po' di, cioè con una preparazione adeguata, e riusciamo a preparare un telefono clonale. Perché da fuori sembra un telefono normale, però dentro ha qualcosa che lo protegge. Assolutamente, è come lei, cioè il suo iPhone in questo momento, il suo telefono cellulare smartphone in questo momento, se viene portato nel nostro laboratorio, siamo in grado di criptarlo, e lei da quel momento in poi nessuno può intercettarlo. No, questo sarebbe interessante farlo. Ma se uno viaggia, ecco, in uno scompartimento di un treno, volendo potrebbe entrare in tutti i telefoni degli altri passeggeri, se avesse, diciamo, intento criminale di farlo, sì. Assolutamente sì, ma vede, un problema è questo, che noi non dobbiamo pensare che già non lo fanno questo. Lo fanno, ha capito? Questo è il problema. Il problema serio delle tecnologie investigative applicate alle indagini di polizia giudiziaria è proprio questo. Cioè la gente deve sapere che non è più sicura. Adesso io non voglio spaventare nessuno, non voglio neanche... No, ma io infatti vedo tutte le reti dei telefoni delle persone stanno vicino a me, è chiaro, loro si collegano con 4G e si vede la loro rete, si vede, se le cerco la vedo, e vedo già il nome. Certo. E quello però mi potrebbe dare un elemento per entrare in un livello più profondo? Sì, certo, si può entrare in un livello più profondo, come le dicevo, con questa mini stazione che lei può occultare tranquillamente nella sua borsa da viaggio, no? A un certo punto lei tira fuori, comincia a collegarsi, comincia a inserire dei dati criptati all'interno di questa stazione mobile, e da quel momento in poi lei riesce a capire le utenze che sono agganciate nell'area dei 500 metri. È spaventoso questa cosa, la sta spaventando? No, figuriamo, certo, mi fa pensare, mi fa riflettere, ma sono tutte cose che nell'area uno già sa che ci sono, ma non si pone mai il problema, perché alla fine dice vabbè, alla fine non mi guarderanno nel telefono, chi se ne importa, ma fino a un certo punto. Certo, guardi, le faccio un altro esempio, Nicoletti. E lei pensi che in questo momento si può venire in possesso di un drone, sì, a forma di diciamo anche, chiamiamolo così, uccello, no? Un passero, grande appunto come un passerotto, che volando si posa, cioè tu dalla stazione di terra puoi telecomandarlo, farlo entrare in una villa, okay, adagiarlo, posizionarlo in un punto dove può riprendere per le prossime 72 ore l'area di interesse. Cioè proprio sembra un uccellino camuffato. Bravissimo, è un uccellino camuffato, dentro c'è una tecnologia molto sofisticata. Io lo faccio entrare nel cortile di uno che voglio intercettare, lo lascio lì per 70 ore e vedo tutto quello che succede. 72 ore e vede quello che succede. La stessa cosa vale per un ragno in movimento, che fa 40 metri al giorno, ok? E lei in 5-6 giorni può percorrere un percorso di 150-200 metri e trovarsi il ragno dentro il giardino. A vederlo passare, sembra un ragno, un insetto. E a vederlo sembra un insetto. Qui parliamo di alta tecnologia, parliamo di una tecnologia a livello di spionaggio industriale, capito? Cioè, ecco, ma io capisco, tutte queste tecnologie ben vengano se servono a prevenire crimini, a sconfiggere i criminali, a indagare su cose losche, figuriamoci, in mano delle forze dell'ordine. Ma se sono in libera vendita potrebbe avercene chiunque. No, non sono in libera vendita, questo è il problema, che non sono in libera vendita. Diciamo che in libera vendita oggi troviamo quelle tecnologie che comunque sono accessibili, perché... Vabbè, i giocattolini, quelli che vediamo in rete, gli occhiali con la telecamera, queste cose ridicole. Sì, d'accordo, ma quando parliamo di alta tecnologia, qui siamo in un campo molto sofisticato, molto articolato, che solamente le persone di un certo livello accedono e possono riuscire ad assemblare. Sembrano i gadget che davano a 007. Guardi, mi ricordo quando iniziava una missione, gli davano la valigetta, c'erano tutti i gadget, ecco, qualcosa del genere. Ma non siamo lontani da quello, cioè ormai quello che vediamo nel film purtroppo si sta realizzando nella realtà dei giorni nostri. Quindi oggi non pensiamo che quello di fronte casa non ci possa controllare, perché se solo ha una capacità elettronica e ha una capacità informatica, se io conosco delle persone che potrebbero fare dei danni, ma dei danni a chiunque. Mi faccia capire, perché lei ha un'esperienza di operazioni criminali quarantennale quasi, quindi... Quali sono le categorie di esseri umani che maggiormente ambiscono ad avere tecnologie di sorveglianza, di intrusione, di spionaggio? Togliamo tutti quelli militari dell'intelligence, che è roba loro. Per fare cosa e chi si occupa di questa roba? Guardi, per fare cosa, per non essere intercettati, per esempio molti imprenditori anche di livello internazionale, adesso non sto qua a citare nomi perché non è corretto, però io dico che moltissime persone si tutelano con telefoni criptati, con delle microspie di sorveglianza, addirittura queste persone vogliono sorvegliare gli altri per cercare di capire come si muovono, capito? Quindi, l'infedeltà aziendale, anche queste cose qua, i dipendenti, molto, sì, certo, la concorrenza. Assolutamente sì, concorrenza, infedeltà aziendale. Ma qui stiamo parlando, cioè, guardi, le dico, oggi le aziende di un certo livello si stanno tutelando anche con cybercrime security, per esempio con il controllo di tutti i dispositivi che sono all'interno di un'azienda, capito? Beh, questo è il minimo, certo. Da violare, e questo è il minimo, però voglio dire, poi questi manager hanno anche la famiglia, quindi tutelano la famiglia, i propri figli, quindi ogni giorno io conosco manager che attualmente alla sera arrivano a casa e si fanno una panoramica di quello che è successo nella giornata, con chi ha provato a intercettarlo. Ha capito? Cioè, certo, è una vita complicata, devo dire così. È una vita molto complicata. Se uno si pone il problema, vive molto male. D'altronde, se non si pone il problema, potrebbe avere spiacevoli incidenti. Ma invece, scusi, ma l'aspetto dell'infedeltà amorosa, coniugale, così, la gente ancora gli interessa capire se uno tradisce, non ti tradisce? Non è una cosa un po' antiquata? Guardi, sì, è una cosa un po' antiquata. Gliene importa più niente a nessuno, chi se ne importa? No, ma ce ne occupiamo perché è un ramo può occuparsi anche di questa cosa, però noi siamo un po' più concentrati sulle cose un po' più serie, un po' più, diciamo, noi per esempio siamo sulla scena del crimine per cristallizzare la scena del crimine, e quindi sappiamo benissimo, cioè noi cerchiamo di alzare il livello di professionalità. A meno che ci siano interessi dietro, ecco, allora sì, ci sono interessi. Ecco, sì, noi facciamo quel tipo di accertamenti proprio perché quando ci sono dei grossi interessi sotto, allora sì, perché poi quello incide tantissimo. Partiamo, lei prima mi ha detto che cristallizza le scene del crimine. Ecco, mi faccio capire la dinamica, perché uno telefona alla polizia, correte, hanno ammazzato una persona, vanno lì. Per avere degli elementi seri di indagine, nessuno deve toccare nulla, nessuno deve muovere nulla. Assolutamente. Intervenite voi, in che maniera intervenite? A noi interveniamo dopo che è entrata in campo, cioè chiaramente le forze dell'ordine hanno precedenza su tutto questo. Noi possiamo entrare in campo come consulenti di parte, quindi dopo, se ci sono delle anomalie o comunque i fatti non corrispondono alla verità, allora noi entriamo in campo come criminologi a cristallizzare, a comunque effettuare dell'indagine per conto del cliente, ha capito? Cioè, quindi se dobbiamo ritornare su una scena del crimine perché quanto asserito nel caso, per dirle, di un suicidio, no? Se noi riteniamo che non sia stato un suicidio e vogliamo capire esattamente se le cose sono andate come vengono descritte, dobbiamo ritornare nella scena del crimine. Quindi ritornare sulla scena del crimine ci permette di cristallizzarla, come ho già detto, e da lì tirare fuori tutte le prove possibili per far combaciare i fatti da quello che è stata descritta la scena, capito? In realtà è molto importante l'apporto tecnologico al fine di reperire dati, indizi, tracce, o in fondo rimane sempre il vecchio mestiere, il fiuto, l'esperienza che conta? Questo è anche importante capirlo, sennò uno dice: mi compro tutti gli apparati possibili, metto a fare l'investigatore. No, guardi, Nicoletti, lei ha fatto una domanda molto precisa e concordo con lei, anzi la ringrazio per averla fatta, perché qui ci vuole sia uno che l'altro, nel senso che ci vuole sia il fiuto investigativo, quindi l'investigatore che cerca di capire anche attraverso la sua esperienza, dal suo know-how, dal modo di come ha vissuto altri casi analoghi con la tecnologia. Oggi la tecnologia offre tantissime possibilità di capire, di repertare, diciamo, sulla scena del crimine moltissimi reperti, quindi voglio dire illumino le luci forensi, cioè il prelievo del DNA, cioè ci sono tantissime possibilità oggi a livello tecnologico che ci possono permettere di avvicinarsi alla verità. Хочеться вирвати з ніг, горло повне, город сохнет, я розказала мамі, чорт возьмі. Бледно-білі рози тронута, в бледно-білому світі тонуть города. Умрі, якщо мене не любиш, я ламаю руки, я ламаю губи, я ламаю твоє тіло насквозь. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Ma lei quando ha cominciato, come ha cominciato? Come le è venuto in mente? Guarda, io ho cominciato a 18 anni semplicemente andando in polizia, cioè mi sono arruolato in polizia, quindi ho avuto modo di stare 25 anni in polizia, poi ho preso un'altra strada e quindi... Ma in polizia faceva probabilmente compiti già legati all'attività investigativa, perché uno può fare tante cose certo, in polizia. Certo. Quindi ha già una passione precoce aveva. È stata una passione precoce, sì, 18 anni in polizia, sono stato fino a 40 e passa anni, 43, e dopodiché mi sono... Qual è stato il caso che si ricorda con più vivacità, di quelli che ha risolto, di cui si è occupato, il momento più importante, diciamo, di questa guardi, carriera? Per dire, in polizia, per esempio... Uno dei casi che mi ricordo proprio perché era proprio anche pericoloso per come l'abbiamo affrontato, una rapina in una banca, le immagini, io 19 anni, appena finito il corso di polizia e quindi messo sulle volanti in una città come Bolzano dove non accadeva nulla. Battesimo del fuoco proprio a tutti gli effetti. Battesimo del fuoco, proprio veramente. E come è accaduto quel giorno? L'hanno messa in macchina e hanno detto andiamo. Dico, è arrivata una telefonata, tra le altre cose, guardi, è una cosa incredibile, era proprio vicino a casa mia dove io abitavo. Quindi, conosceva la zona almeno. Conoscevamo la zona, quindi devo essere sincero, è stata una fortuna che non c'è stata la sparatoria, però cioè, voglio dire, i rapinatori, due all'interno della banca, uno è uscito fuori, abbiamo intimato di mettere la pistola a terra, ha messo questa pistola, giocattolo a terra e poi siamo intervenuti e abbiamo chiuso il discorso. Però l'adrenalina, mi creda, in quel giorno lì era veramente, veramente altissima. Quindi so che quella è stata una giornata veramente che ti porterò dentro per tutta la vita. Invece per quanto riguarda gli aspetti legati al mondo del lavoro, oggi esiste anche una possibilità di lavorare sulla concorrenza attraverso sistemi intrusivi. In questo caso sono persone che la chiamano per difendersi da questo. Vediamo un po' chi vuole vedere i segreti della mia azienda o non so, sono tante le informazioni che possono nuocere. Sì, questo è una situazione che si verifica quotidianamente per noi, perché molte aziende vogliono cercare di copiare lo spionaggio industriale, ecco questa cosa. Lo spionaggio industriale vero e proprio, questo si tratta proprio di spionaggio industriale vero e proprio, quindi noi cerchiamo di proteggere comunque tutti i dispositivi all'interno delle aziende, quindi computer, telefoni, quindi ecco che ritorniamo a quanto avevamo detto prima, no? Telefoni cellulari criptati, ha capito? Cioè i manager oggi di un certo livello si attrezzano con questi cellulari criptati, quindi sono soggetti anche a fare delle bonifiche elettroniche ambientali sulle proprie autovetture aziendali, quindi noi facciamo anche questo, cioè per proteggere i manager di un certo livello. La bonifica come funziona? Vedere se ci sono microspie a bordo, va smontata tutta la macchina? Esattamente, quindi sì, esattamente, noi diciamo usiamo degli strumenti molto sofisticati, per esempio quello che usiamo di maggior frequenza è il rivelatore di giunzioni non lineari, che è un dispositivo che trova, intercetta anche le microspie latenti o spente, per dire, all'interno di un abitacolo. Quindi sì, noi sistematicamente ogni mese per le persone che noi tuteliamo facciamo anche questo tipo di servizio, quindi facciamo le bonifiche elettroniche ambientali sia dei cellulari per chi non ce l'ha criptato, ma soprattutto per i mezzi, le autovetture che questi manager usano quotidianamente ogni giorno. E alle volte, come le dicevo, c'è la medicina, ma c'è anche l'antidoto, no? Se uno mi copia mi clona il codice della macchina e poi mi inserisce una microspia, è chiaro che io di tanto in tanto devo anche bonificarla quest'auto, perché se per caso parlo in auto di cose delicate, sì, sono cose delicate, ma questo avviene quotidianamente. Guardi che questo, cioè oggi io le sto dicendo questo, ma in questo momento può essere che moltissimi manager hanno questa una microspia in auto e non lo sanno. A livello familiare, non è mai capitato che le chiedano osserva un po' mio figlio, seguilo, magari si droga, frequenta cattive persone. Sì, sì, certo che sì. In quel caso come vi comportate? Che tipo di... Noi ci comportiamo con molta professionalità, perché quando parliamo di minori noi siamo molto attenti, l'attenzione è altissima, quindi siamo riusciti, per dirle, nel 2019 siamo riusciti comunque a risolvere almeno una decina di casi di ragazzi in adolescenza che si drogavano, comunque avevano dei comportamenti non ma una troppo... famiglia c'ha degli strumenti per senza, cioè, che uno domanda al figlio, ma ti fa, il figlio dice no, finisce lì, ma se ha una sua incertezza su questo, esiste un test che può fare un genitore su un figlio minore? Un test, per esempio il test che frequentemente fanno i genitori, il test del capello, no? Ma bisogna tagliargli i capelli mentre dormono? No, guardi, basta, l'importante è che abbia il bulbo, in qualche maniera comunque si trova, si trova comunque, anche lei beve un bicchiere su un bicchiere, noi lo repartiamo, lo portiamo in laboratorio. Dalla saliva lo capisce? Certo. Anche che tipo di droga si fa al ragazzo? Sì, gli piace i droghe più pesanti come l'eroina, la cocaina, quindi il capello mi sembra dice anche da quanto tempo uno si drogava, vero? Assolutamente. Lei sa che la cocaina comunque rimane nel sangue 6 mesi, quindi voglio dire, se io l'assumo oggi, io per 6 mesi sono positivo se mi fanno il test. Lei si può trovare il problema se facesse uno screening nazionale sulla cocaina? Ma guardi, lo screening nazionale, lei sa che ne verrebbe fuori. Tempo fa fecero dei test, hanno provato a fare dei test a Montecitorio, no? Sì, le Iene lo fecero, sì, lo fecero. Esatto. rubarono, andarono con un bicchiere, con un foglio, non so, rubarono la saliva ai parlamentari. Sappiamo com'è andata, poi molti erano disposti anche a fare il test volontariamente, ma molti si sono rifiutati, trovando la scusa che secondo loro non era il attendibile caso di fare un... Invece lei si è occupato in passato, voglio sapere i casi ancora in cui sono aperte le istruttorie, di casi importanti come consulente, come di qualcosa, non so, persone scomparse, persone uccise. Guardi, io quello che le dico, ma questo posso dirlo apertamente perché non è un problema, sono il consulente della famiglia Ventimiglia, che è una ragazza di 35 anni che è scomparsa. Ah, Giusi Ventimiglia, un caso noto. Giusi Ventimiglia, a Bagaria, è un caso noto, lei lo conosce molto bene, io sono il consulente della famiglia Ventimiglia, quindi stiamo cercando di dare una mano a questa famiglia per risolvere questo caso che è da 4 anni ormai. Quali sono gli elementi per rintracciare una persona che scompare e con grande probabilità è scomparsa volontariamente, non vuole lasciare tracce di sé? Cosa si fa? Si fa il giro delle conoscenze, delle amicizie? Da dove parte? Infatti intanto la prima cosa da fare è acquisire le informazioni dei propri dispositivi elettronici, no? Quindi tablet, computer, telefono cellulare, e quindi da lì si può capire moltissimo le ultime ore della scomparsa o dello scomparso. Dopodiché ci sono altri strumenti, per esempio noi stiamo cercando di aiutare in questo caso con un nostro dispositivo che alla ricerca delle persone sottosuolo, con un dispositivo molto sofisticato che riesce a intercettare corpi sotto la superficie, arrivando anche a una metratura di 3 metri. Cioè, quindi sotto 3 metri. E poi bisogna sapere più o meno una zona dove potrebbero averlo seppellito. Esattamente, questo è uno degli strumenti che utilizziamo in questi casi. Poi chiaramente bisogna fare delle indagini, adesso però noi siamo molto avanti con la tecnologia, quindi io utilizzo anche le immagini satellitari pregresse. Infatti in questo ultimo caso noi stiamo cercando di... abbiamo acquisito delle immagini satellitari, per esempio su Giusi Ventimiglia abbiamo acquisito adesso delle immagini satellitari del giorno precedente, del giorno scomparsa e del giorno dopo, per vedere se riusciamo a intercettare qualcosa. Quindi anche in questo caso le immagini satellitari ci stanno dando una mano ad acquisire quelle immagini. Poi vediamo se i risultati ci danno ragione o possiamo provare una prova certa che ci possa permettere di continuare l'indagine. E questo devo ringraziare INAI, che è un ente italiano che mette a disposizione queste immagini con cui io collaboro. Quindi le immagini satellitari in questo momento aiutano tantissimo le indagini di polizia giudiziaria. Le è mai venuta la tentazione in tanti anni di usare tutto il suo armamentario per questioni sue personali, che ne so, una vicenda personale, privata, magari andare più... assolutamente no, integerrimo. Guardi, no, perché le spiego, guardi, io avevo la possibilità di monitorare i miei figli, monitorare mia moglie, monitorare... Cioè, te non vorresti il suo figlio, un figlio suo... Cioè, c'ha sempre l'occhio del padre attaccato alla schiena, comunque sia. Sì, guardi, mia figlia ha quattro figli, la più grande e l'altra è avvocato, quindi non mi sono mai sentito in obbligo di fare questa cosa, perché non mi hanno dato mai neanche agio di poter mettere in campo. Loro sanno che mestiere faccio, quindi insomma... Ma gli hanno mai detto, nemmeno quando erano più giovani, papà, ma che mi stai sorvegliando? Cioè... No, assolutamente no, non l'ho mai fatto. It seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so dumb, mysterious. Got your shades on your eyes and your heels so high. You can't even have a good time. Everybody look to the left, yeah. Everybody look to your right. We'll pay you with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the, cha-ching, cha-ching. Ain't about the, yeah. Ba-bling, ba-bling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. We need to take it back in time. When music made us all unite, and it wasn't no blows and video. Am I the only one getting tired? Why is everybody so obsessed? Money can't buy us happiness. Can we all slow down and enjoy right now? Guarantee you we'll be feeling all right. Everybody look to the left, yeah. Everybody look to your right. Can you feel that shit? We'll pay you with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the, cha-ching, cha-ching. Ain't about the, yeah. Ba-bling, ba-bling. Wanna make the world dance. Forget about the price. Si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Prime Day su Amazon è tornato. Il 13 e 14 ottobre hai ben 2 giorni per approfittare di grandi risparmi su tutto ciò che vuoi. 2 giorni per scegliere un nuovo frullatore. 2 giorni per trovare la gonna perfetta per tua mamma. 2 giorni per portarti avanti con tanti regali di Natale. Che sia per te, la tua famiglia o il tuo amico a quattro zampe, scopri 2 giorni di grandi risparmi su tantissimi prodotti. Non perderti Prime Day su Amazon. 13 e 14 ottobre. Solo per i clienti Amazon Prime. Il treno va. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori. Ma nel giorno delle amicizie, lei non ha mai visto un po' di inquietudine negli occhi dei suoi amici? Andate a cena assieme, li invitano a casa. Cioè, io sono sincero, adesso mi faccio questa bella chiacchierata con lei, sto tranquillo e sono contento. Però un po' mi viene l'idea, dico, ma chissà questa persona, adesso mi parla, mi guarda al telefono, con un'occhiata ha capito subito, mi ha messo qualcosa in tasca. Non così, uno ci pensa, perché logico ci pensa. Questo, guardi, siamo, dirò, umani, siamo umani. Sì, no, ma io ho fatto una selezione degli amici, no? Gli amici miei sanno esattamente che io non potrò mai andare contro di loro o comunque utilizzare qualcosa del mio studio per andare contro di loro, perché deontologicamente non è neanche corretto. E poi è una forma di inclusione che a me non va a applicare alle persone con cui io magari ci vado fuori a cena. Le dirò di più, ci sono molti amici e molte persone che si sono staccate da noi proprio per queste paure che lei diceva. Però c'era la coda di paglia, evidentemente. C'è qualcosa da nascondere. Abbiamo perso l'amicizia proprio perché, cioè, voglio dire, proprio perché pensavano che la nostra amicizia un domani potesse nuocere se noi avessimo fatto qualcosa contro di loro. Probabilmente, come dice lei, avevano una coda di paglia e probabilmente. Beh, c'ha i fatti loro, ognuno ha diritto ad avere i suoi segreti, è mica che è un delitto aver segreti. È che, no, evidentemente, hanno detto: senti, questo c'ha gli occhi troppo lunghi. meglio che... lei sa che ci sono tre tipi di vita: quella pubblica, quella privata e quella segreta, no? Quindi se non c'è niente di male, io rivendico il diritto ad avere anche una vita segreta se uno vuole, assolutamente, mica... sì, sono d'accordo con lei. Non è compiere un reato è un'altra cosa. Assolutamente sì, sono d'accordo con lei. Quindi però le amicizie che abbiamo perso sono state perse perché purtroppo la vita segreta non volevano farla emergere. E quindi le dirò ancora di più: alcune di queste persone che poi si sono allontanate da noi effettivamente avevano qualcosa da nascondere, infatti poi hanno avuto problemi. Ecco, riemerge l'occhio del poliziotto, è chiaro, è logico, sì. Si è accorto dopo, c'è strano che questo mi vuol più vedere, sì, perché alla fine... Ha capito, sì, no, ma infatti funziona così. Quindi almeno è riuscito a selezionarsi il giro delle amicizie, guardate che mica è una cosa da poco. Guardi, le dirò di più, le amicizie che io come ho detto, tutelo moltissime persone anche di fama nazionale, no? Quindi di un certo spessore e si fidano di noi proprio perché noi siamo integerimi. Cioè non c'è, guardi, abbiamo avuto modo anche. Beh, se non lo siete voi, finisce il mondo, perché esattamente uno affida la sicurezza a persone, cioè no, tutto può essere. Esatto, abbiamo avuto modo di constatare che addirittura hanno cercato di corromperci per andare contro i nostri clienti. Quindi preso, denunciato alle autorità competenti, cioè non transigo su queste cose, guardi Nicoletti, io credo di essere un professionista serio, è tanti anni che faccio questo mestiere, non voglio mettermi contro nessuno, nel senso che faccio fin dove la legge mi permette di arrivare e tutto il resto che è illegale lo lascio agli altri. Certo, abbiamo parlato degli amici, c'era anche un sacco di nemici, perché... Guardi, chi è che non ha nemici? Ecco, sì, sì, no, mi rendo conto. Ce li abbiamo tutti, probabilmente li avrà anche lei. Io, il mio mestiere è trovarmi nemici, lo so bene. Se li ho anch'io, però non mi guardo delle persone che hanno invidia, non mi guardo delle persone che mi... Ma guardi, devo dire la verità, non è che ho avuto molti screzi con persone, con le persone. Ma ci credo, chi è che ha il coraggio di avere screzi? Ma no, guardi, le dirò di più, Nicoletti. Pensi lei che con il mestiere che io faccio mi sono trovato in casa una persona che frequentava mia figlia che poi l'ha stalkerizzata, ha capito? È una cosa questa è una cosa interessante adesso, però adesso, quindi lei si occupa anche di repressione dello stalker, dello stalking. Sì, assolutamente sì. Ma era abbastanza stupido questo ragazzo, va a stalkerizzare la figlia di un investigatore criminologo. Sì, è stato abbastanza stupido, però vede che tante volte l'ignoranza non ha limiti, no? E quindi questo personaggio, che poi su questo punto devo anche ringraziare la squadra mobile di Verona, che mi ha dato una grossissima mano per ma lei avrà dato gli elementi che nessuno può dare, figuriamoci. Avrà avuto tutte le prove. Assolutamente sì, ho dato tutte le prove plausibili, quindi non si sono potuti tirare indietro, ma mi hanno anche sconfinato in un angolo per un certo periodo, proprio perché siccome emotivamente ero il padre di questa ragazza, quindi mi ha detto: tu ragioni in questo caso secondo me sei un bravo criminologo, però in questo caso sei coinvolto, certo, troppo coinvolto. Quindi mettiti da parte che ci pensiamo noi. Comunque è riuscito a metterlo nelle condizioni di non disturbare più sua figlia, sì. Sì, siamo riusciti a metterlo in quelle condizioni ed è andata bene, però abbiamo rischiato moltissimo. Questo glielo posso garantire. Lei che idea si è fatta su questo? C'è uno stato patologico o sono persone che hanno un disprezzo totale per la vita degli altri, per la giustizia, per i diritti e via dicendo? Quello che ha detto lei è correttissimo. In più gli stalker tendono a sconfinare le persone in un angolo, privandole degli affetti personali, dei propri familiari. Quindi un desiderio di dominio totale e sopraffazione. Sì, hanno bisogno di questo dominio totale. Io, guardi, in quel periodo ho assolutamente notato questo e lì mi si è accesa la lampadina e ho cominciato a entrare in campo per salvare proprio mia figlia. Che la vedeva a disagio, la vedeva in una situazione di disagio? L'ho vista molto a disagio, addirittura oggi lei ha studiato giurisprudenza, si è laureata in giurisprudenza, quindi una ragazza trentenne piena di voglia. Ma allora non aveva il coraggio di confessargli che c'era questo problema? Non ha avuto il coraggio. Lo so, perché la vittima sta nelle condizioni che si sente in colpa addirittura molte volte. Non capisce manco bene. Guardi, addirittura se mancava il ketchup dentro il frigo, erano quasi botte. Se mancava il ketchup nel frigo... Vabbè, è un criminale questo, parliamo di una persona. È un criminale, è stato un criminale, sì, è stato un criminale, per fortuna ce ne siamo liberati. Va bene, io le sono grato, sono arrivato alla mia stazione d'arrivo momentanea, che poi ogni arrivo per me è una ripartenza. Nicoletti. Grazie a chiacchierata, mi ha dato ottimi consigli e mi ha messo anche nuove paure, come se non bastasse quelle che avevo, ma se passasse dalle sue parti le darò il mio telefono da rendere impenetrabile, sì. Così almeno questo. Assolutamente sì, lei se ha bisogno di qualcosa mi chiama. Benissimo, grazie, buon viaggio, grazie. Alla prossima, grazie mille, grazie. Wait for me until I'm close enough. We could count to five. If you're alone and I'm not prepared, I will be gone for a while, coming back in slow motion. Si ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo iltrenova@radio24.it. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su aruba.it.